baci e ti regalo un cuore come il miele al cioccolato, la panna è il mio amore. C'è pubblicità o no in questa mia canzone, e che colore ha, oh oh, una bolla di sapone. Amore balla insieme a me, se il cielo ha le stelle è perché, perché ci sei tu a fianco a me. Na na na na na, na na na na na na, na na na na na, na na na na na. Balla amore balla sotto il cielo con le stelle, il mare sa di sale e per me tu sei speciale. Corsa fino al faro, un bacio per sognare con te. Il mondo ha più colori se le piante hanno i fiori, e perché, perché ci sei tu a fianco a me. Na na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na. Balla amore balla e lasciati guardare, il sole nei tuoi occhi è la luce dell'amore. 12 rintocchi, c'è tempo per tornare con te. Mi sento più felice se le piante hanno i fiori, e perché, perché ci sei tu a fianco a me. Na na na na na, na na na na na na na, na na na na na, na na na. Balla balla amore sulle notte della vita, il mare sa di sale e per me tu sei speciale. Di corsa fino al faro, un bacio per sognare con te. Il mondo è più felice se le piante hanno i fiori, e perché, perché ci sei tu a fianco a me. Na na na na na, na na na na na na, na na na na na, na na na na.